Allora, eccoci nel corso del GR, sempre collegati con Trieste. Ciao Scalva, come sta andando? Ciao. Bene, è un presidio comunque appunto molto partecipato. Ci siamo spostati dalla Piazza Unità, dove era atteso Moretti, dopo aver scoperto che in realtà è in un altro palazzo, a una distanza di circa 200 metri. E al momento stiamo presidiando questo palazzo e in questo preciso momento sembra che dovrebbe uscire. E comunque le forze dell'ordine stanno presidiando l'ingresso e niente, aspettiamo di vedere cosa succede, insomma. Ho capito. Dunque, vabbè, dalle notizie che escono da alcune agenzie sembra che Moretti non sia proprio partito in realtà. Davvero. Esatto, immagino insomma che forse le stiano dando proprio per evitare ulteriori contrattempi, ma invece tu ci dai un'altra notizia. Guarda, c'è modo di credere che lui sia qua, anche perché c'è questo palazzo è completamente presidiato da camionette, celere, carabinieri in tenuta antisommossa, con scudi, manganelli e tutto. Sono qua già da diverse ore che presidio il nostro posto. Oddio, se lì non c'è, non so che cavolo ci stanno a fare. Vabbè, non vorremmo, insomma, questa è, ti ripeto, è un'agenzia che è stata diffusa poco tempo fa, quindi magari sarebbe il caso appunto di accertarsi non tanto sul contenuto veritiero di essa, ma più che altro se ha uno scopo ben preciso, credo. Volevo chiederti una cosa in linea un po' più generale, perché qui da noi, insomma, la questione delle ferrovie, del trasporto ferroviario, oltre ai motivi legati all'alta velocità, è molto forte e si fa sentire proprio perché è disastroso, diciamo, il sistema dei trasporti, soprattutto su scala locale. Vorremmo capire se anche lì a Trieste ci sono gli stessi disagi. Sì, Trieste comunque i disagi ci sono, perché sono stati tagliati, come in molte parti d'Italia, un sacco di treni. E anche cioè, ne siamo praticamente un cul-de-sac d'Italia, come ben sapete geograficamente. Sì, disagi ferroviari. Poi tra l'altro una cosa che non è girata tanto: Moretti doveva tra l'altro venire già l'altro mese, sono state tolte in un'opera di abbellimento della stazione tutte le panchine, cacciati fuori tutti i barboni. Poi nelle giornate di Boraforte della stazione di Trieste, questi sono ritrovati senza un posto dove andare, che è un'altra cosa simpatica che il buon Moretti ha fatto. Vabbè, quindi insomma ne combina ogni di cotta di crude. Esatto. Senti, la partecipazione è ancora elevata? Sì, vabbè, saremo una sessantina di persone al momento. Comunque ci sono interventi al microfono, abbiamo un piccolo sound system. Comunque, insomma, per una città come Trieste, una cosa organizzata in una giornata così la mattina, sicuramente possiamo essere soddisfatti. Va benissimo, allora Scalza, noi ti ringraziamo e sì, porta i saluti a tutti i presenti. Ciao. Ok, grazie, ciao. Ciao.